pasticche ammalati, furbi sul letto a dir 33. Suona, suona, suona campanello, suona, suona che qualcuno chiama. E stanche assonnata a te non dolore, un po' per dovere, un po' per amore. E forbici nelle mie mani, in mezzo a mille antibiotici sto, tra caposala ed i vari dottori, nel corridoio un carrello che va, salgono e scendono i vecchi ascensori, visitatori di 100 città. Offro il termometro.